Paragrafo primo. L'oggetto della filosofia prima è l'essere in quanto essere. C'è una scienza che studia l'essere in quanto essere e le proprietà che gli sono inerenti per la sua stessa natura. Questa scienza non si identifica con nessuna delle cosiddette scienze particolari, giacché nessuna delle altre ha come suo universale oggetto di indagine l'essere in quanto essere. Ma ciascuna di esse ritaglia per proprio conto una qualche parte dell'essere e ne studia gli attributi, come fanno ad esempio le scienze matematiche. E perché noi stiamo cercando i principi e le cause supreme, non c'è dubbio che questi principi e queste cause sono propri di una certa realtà in virtù della sua stessa natura. Se pertanto proprio su questi principi avessero spinto la loro indagine quei filosofi che si diedero a ricercare gli elementi delle cose esistenti, allora anche gli elementi di cui essi hanno parlato sarebbero stati propri dell'essere in quanto essere e non dell'essere per accidente. Ecco perché anche noi dobbiamo riuscire a comprendere quali sono le cause prime dell'essere in quanto essere. Paragrafo secondo. La sostanza come oggetto della filosofia prima. Il termine essere è usato in molte accezioni, ma si riferisce in ogni caso ad una cosa sola e a un'unica natura, e non per omonimia. Ma come tutto ciò che è sano si riferisce in ogni caso alla salute, sia in quanto la conserva, sia in quanto la procura, sia in quanto la manifesta, sia in quanto è in grado di riceverla, e come tutto ciò che è medico si rapporta alla medicina, poiché una cosa si dice medica perché possiede l'arte della medicina, e un'altra perché è naturalmente adatta ad essa, e un'altra ancora perché è opera della stessa medicina. Anzi, possiamo assumere anche altri termini usati in modo simile a quelli precedenti. Così anche il termine essere viene usato in molte accezioni, ma ciascuna di queste si riferisce pur sempre ad un unico principio. Alcune cose infatti si chiamano esseri perché sono sostanze, altre perché sono determinazioni affettive della sostanza, altre perché aprono la via verso la sostanza, o ne indicano la distruzione, o la privazione, o le qualità, o perché sono produttrici o generatrici di una sostanza, ovvero dei termini relativi alla sostanza, o anche perché sono negazioni di qualcuno di questi termini o della sostanza. Ed è questo il motivo per cui noi diciamo che anche il non essere è, in quanto non essere. E come dunque di tutte le cose sane esiste un'unica scienza, parimenti avviene questo anche per le altre cose. Difatti è riservato ad un'unica scienza lo studio non solo di quei termini che esprimono una nozione comune, ma anche di quei termini che sono relativi ad una sola natura, giacché anche questi ultimi, in un certo senso, esprimono una nozione comune. Quindi è chiaro che spetta ad un'unica scienza anche lo studio degli esseri in quanto esseri. In ogni caso, poi, la scienza ha come suo oggetto peculiare ciò che è primo, ossia ciò da cui le altre cose dipendono e mediante cui esse ricevono le loro denominazioni. Pertanto, se questa prima cosa si identifica con la sostanza, allora il filosofo dovrà avere in suo dominio i principi e le cause, appunto, delle sostanze. Ma di ogni genere determinato di cose, come esiste un'unica sensazione, così esiste anche un'unica scienza. Allo stesso modo che, ad esempio, la grammatica, che pur è una, studia tutte quante le parole. Perciò è compito di una scienza unica per genere studiare quante siano le specie dell'essere in quanto essere. Ed è compito delle parti specifiche di questa scienza studiare le parti specifiche dell'essere. Tuttavia, se l'essere e l'uno sono identici e hanno una sola natura in quanto esiste tra loro la medesima correlazione che si riscontra tra principio e causa e non in quanto essi vengono indicati con la medesima definizione, del resto non vi sarebbe alcuna differenza, anzi sarebbe persino più utile a noi concepire l'identità dell'essere e dell'uno anche sotto questo secondo aspetto, poiché sono la medesima cosa le espressioni un uomo e uomo esistente e uomo, e così anche raddoppiare l'espressione dicendo uomo ed uomo esistente in realtà non porta ad indicare qualcosa di diverso, ma è anzi evidente che tra l'uomo e l'essere non c'è separazione, né per quanto concerne la generazione, né per quanto concerne la corruzione, e lo stesso dicasi anche a proposito del termine uno, e da ciò consegue che l'aggiunzione di un termine a queste espressioni non apporta alcun cambiamento di significato, e l'uno non è nulla al di fuori dell'essere, e inoltre la sostanza di ciascuna cosa è unica non per accidente, ma è in tal modo qualcosa che esiste essenzialmente, allora si avrà di conseguenza che quante sono le specie dell'uno, altrettante sono anche quelle dell'essere, e sarà compito di una scienza che sia unica per genere studiare l'essenza di tali cose, vale a dire, ad esempio, l'essenza dell'identico, del simile e delle altre determinazioni siffatte. Anzi, quasi tutti i contrari potranno essere riportati a questo principio. Del resto valgono le considerazioni fatte da noi a tale proposito nella raccolta dei contrari. E la filosofia ha tante parti quante sono le specie delle sostanze. E di conseguenza, dato che la filosofia ha tali parti, ci deve essere necessariamente una filosofia prima e dopo di questa una filosofia seconda. Difatti l'essere e l'uno si dividono immediatamente in generi, però anche le scienze seguono questa stessa divisione. In realtà il termine filosofo somiglia in un certo senso al termine matematico, giacché anche la matematica si presenta divisa in parti, e nel settore delle scienze matematiche ce n'è una che occupa il primo posto, un'altra che occupa il secondo e altre che occupano successivamente altri posti. D'altra parte, poiché è compito di un'unica scienza lo studio degli opposti, e poiché all'unità si oppone la molteplicità, e poiché è compito di un'unica scienza studiare la negazione e la privazione, per il fatto che, nell'un caso come nell'altro, si studia l'unità alla quale si riferiscono la negazione e la privazione, difatti o noi neghiamo in modo assoluto l'esistenza dell'unità, oppure ne neghiamo l'esistenza solo in riferimento ad un genere, e in questo secondo caso l'unità è modificata non solo dal contenuto della negazione, ma anche dalla differenza, poiché la negazione non è altro se non l'assenza di quell'unità, invece nel caso della privazione vi è anche un sostrato naturale che fa da predicato alla privazione stessa, e così all'unità è opposta alla molteplicità. Risulta allora che è compito della scienza di cui ci stiamo occupando anche la conoscenza dei termini opposti a quelli sopra accennati, ossia dell'altro, del dissimile e dell'ineguale, e di tutte le altre determinazioni che derivano sia da questi termini, sia dalla molteplicità e dall'unità. E fra gli opposti c'è anche la contrarietà, giacché questa è una sorta di differenza, e la differenza è una sorta di alterità. Di conseguenza, poiché l'uno si dice in molti sensi, anche questi termini avranno una molteplicità di accezioni, ma ciononostante la loro conoscenza resta interamente riservata a un'unica scienza. Infatti lo studio di certi termini è riservato a scienze tra loro differenti, non nel caso che tali termini abbiano una molteplicità di accezioni, ma nel caso che le loro definizioni non si conformino all'unità e non si riferiscano ad essa. E poiché tutte le cose si riferiscono a ciò che è primo, come ad esempio tutte le cose che prendono l'appellativo di uno sono relative all'unità primaria, dobbiamo ammettere che la faccenda sta allo stesso modo anche per quello che concerne l'identità e l'alterità e i contrari. In modo che, dopo aver distinto le accezioni in cui ciascuno di tali termini viene usato, noi dobbiamo darne spiegazione riportando il termine stesso alla nozione primaria che è in ciascun predicato e vedendo in che modo è in relazione con questa. Difatti, alcune cose assumeranno il loro nome per il fatto che includono in sé tale nozione, altre perché la producono, altre ancora per altri motivi simili. È evidente pertanto, come appunto abbiamo rilevato nell'esame delle aporie, che spetta ad un'unica scienza occuparsi sia di queste nozioni, sia della sostanza. E questa era precisamente una delle difficoltà da noi esaminate in quella sede. Ed è compito del filosofo poter condurre le indagini su tutte le questioni. Se, d'altra parte, questa funzione venisse negata al filosofo, chi sarà mai colui che si metterà a ricercare se sono la stessa cosa Socrate e Socrate seduto, oppure se una cosa ha un solo contrario, oppure che cosa è il contrario, o in quante accezioni questo termine viene usato? E lo stesso dicasi anche per le altre questioni di tal genere. Poiché pertanto queste sono le affezioni essenziali dell'uno in quanto uno e dell'essere in quanto essere, e non in quanto numeri o linee o fuoco, è ovviamente compito di quella scienza conoscere tanto l'essere quanto agli attributi di quei termini. E coloro che si dedicano allo studio degli attributi sbagliano non perché in tal caso essi non si pongano problemi filosofici, ma perché anteriore agli attributi è la sostanza, ossia proprio quella cosa di cui essi non conoscono niente con esattezza. Già che, come vi sono affezioni appartenenti proprio al numero in quanto numero, quali sono ad esempio parità o disparità, commensurabilità o uguaglianza, eccesso o difetto, e queste proprietà sono inerenti ai numeri tanto se questi sono presi ciascuno singolarmente, quanto se sono messi in relazione tra loro, e allo stesso modo anche il solido, l'immobile e il mosso, e ciò che è privo di peso e ciò che è pesante, presentano altre proprietà che sono a loro peculiari, così anche l'essere in quanto essere ha alcune sue peculiari caratteristiche. E proprio queste sono le cose su cui il filosofo deve fermare la propria indagine per scoprire la verità. Ed eccone una prova. I dialettici e i sofisti si vestono esteriormente della stessa figura del filosofo, giacché la sofistica è sapienza soltanto in apparenza. I dialettici, da parte loro, si mettono a disputare su ogni argomento, ma in fin dei conti l'oggetto che tutti costoro hanno in comune è l'essere. Ed essi disputano su tali argomenti evidentemente perché questi sono riservati peculiarmente alla filosofia. E in realtà la sofistica e la dialettica si occupano dello stesso genere di cose di cui si occupa la filosofia. Ma quest'ultima differisce dalla dialettica per il diverso grado del suo potere e differisce dalla sofistica per scelta di vita. La dialettica infatti si propone di fare solo un assaggio di quelle cose che la filosofia vuole conoscere fino in fondo, mentre la sofistica è filosofia solo in apparenza, ma non in realtà. Inoltre, una delle due serie di contrari si identifica con la privazione, e tutti quanti i contrari sono riducibili all'essere e al non essere, all'unità e alla molteplicità, come ad esempio la quiete è proprietà dell'uno, mentre il movimento è proprietà del molteplice. E quasi tutti i filosofi riconoscono che le cose esistenti e la sostanza sono composti da contrari. Difatti tutti considerano come contrari i principi, dal momento che alcuni parlano di dispari e di pari, altri di caldo e di freddo, altri di limite e di illimitato, altri di amicizia e di contesa. Ed è evidente che anche tutte le altre cose sono riducibili all'unità e alla molteplicità. Si consideri come già eseguita da parte nostra una tale riduzione. E i principi assunti dagli altri pensatori vengono tutti a precipitare, per così dire, nell'unità e nella molteplicità, quasi che queste due cose fossero generi. Anche da queste considerazioni, pertanto, risulta con evidenza che è compito di un'unica scienza lo studio dell'essere in quanto essere. Infatti, tutte le cose o sono contrari o derivano da contrari, e principi dei contrari sono l'unità e la molteplicità, e lo studio di queste cose spetta ad un'unica scienza, sia nel caso che esse vengano chiamate con un unico termine, sia nel caso, forse più rispondente alla verità, che esse vengono chiamate con termini diversi. Ma tuttavia, anche se il termine uno viene usato in molte accezioni, gli altri termini verranno usati in relazione alla accezione primaria di quello. E lo stesso avverrà per i contrari, anche se l'essere, o anche l'uno, non è universale, non è identico in tutte le cose particolari, o anche se non è separato dal particolare, come in realtà non è forse separato, bensì sta ad indicare in alcuni casi solo una relazione rispetto a un termine unico e in altri casi solo un'unità di successione. E appunto perciò il geometra non ha il compito di studiare che cosa è il contrario o il perfetto o l'uno o l'essere o l'identico, se non in quanto questi termini sono già postulati. Resta chiaro dunque che è pertinente ad un'unica scienza lo studio dell'essere in quanto essere e degli attributi dell'essere in quanto essere. E resta altresì chiaro che la medesima scienza si occupa non solo delle sostanze, ma anche degli attributi di queste, e non solo degli attributi di cui abbiamo parlato, ma anche del prima e del poi, del genere della specie, dell'intero e della parte, e delle altre determinazioni di questo genere. Paragrafo terzo. Importanza dello studio degli assiomi e, in particolare, del principio di non contraddizione. Bisogna ora precisare se spettino ad un'unica scienza o a scienze differenti lo studio di quei concetti che in matematica sono chiamati assiomi e lo studio della sostanza. È senz'altro evidente che anche l'indagine sugli assiomi compete ad un'unica scienza, e precisamente a quella del filosofo. giacché gli assiomi abbracciano tutta quanta la realtà e non qualche genere particolare che sia separato dagli altri. E indubbiamente ogni uomo si serve degli assiomi, sia perché questi sono propri dell'essere in quanto essere, sia perché ogni genere è essere. Ma ciascuno se ne serve tuttavia entro i limiti convenienti, cioè fin dove si estende il genere a proposito del quale ciascuno intende addurre le proprie dimostrazioni. Di conseguenza, poiché è evidente che gli assiomi si applicano a tutte le cose in quanto queste sono esseri, infatti l'essere è ciò che è comune a tutte quante le cose, allora solamente a chi si occupa di studiare l'essere in quanto essere è riservata anche l'indagine su di essi. Per questo motivo, nessuno che si occupi di indagini scientifiche parziali, ad esempio nessun geometra e nessun aritmetico, osa enunciare qualche sua teoria sugli assiomi, dicendo se essi siano veri o falsi. Lo hanno osato invece alcuni fisici, ed è naturale che l'abbiano osato, giacché essi erano i soli ad essere convinti di svolgere la loro osservazione su tutta intera la natura e sull'essere. Poiché però esiste comunque qualcuno che sta più in alto del fisico, giacché la natura è solo un genere dell'essere, allora proprio a questo qualcuno che si occupa di indagare intorno all'universale e alla sostanza prima è riservato anche lo studio degli assiomi. Anche la fisica, tuttavia, è una certa specie della sapienza, ma non è la prima. A proposito poi di certi tentativi fatti da alcuni che discutono del modo in cui si debba accogliere la verità, c'è da notare che siffatti tentativi sono eseguiti da loro senza alcuna preparazione sugli analitici. E prima di accostarsi a un'indagine scientifica, è indispensabile possedere una piena conoscenza degli analitici e non bisogna mettersi a ricercare quando di essi si sia solo sentito vagamente parlare. È chiaro pertanto che è riservato esclusivamente al filosofo, cioè a colui che contempla tutta quanta la realtà nella sua essenza naturale, anche il compito di studiare i principi del procedimento sillogistico. E spetta a colui che possiede la più profonda conoscenza di ciascun genere di cose essere capace di trattare dei principi più saldi dell'oggetto da noi ora preso in esame. E di conseguenza colui che conosce le proprietà dell'essere in quanto essere deve saper riconoscere i principi più saldi di tutte le cose. E questo è appunto il filosofo. E il principio più saldo di tutti è quello a proposito del quale è impossibile cadere in errore, giacché esso è necessariamente quello che è il più noto. Tutti infatti cadono in errore su quelle cose che non conoscono e che non è fondato su ipotesi. Difatti un principio che deve essere necessariamente posseduto perché si possa comprendere qualsivoglia delle cose esistenti non può essere affatto un'ipotesi. E ciò che si deve conoscere qualora si intenda conoscere qualsiasi altra cosa non può non essere posseduto prima di ogni altra conoscenza. È chiaro dunque che solo un siffatto principio è il più saldo di tutti. Ma ciò premesso, accingiamoci a dire quale esso sia. Esso è il seguente. È impossibile che il medesimo attributo nel medesimo tempo appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e alla medesima relazione. E si considerino già aggiunte tutte le altre determinazioni che si potrebbero aggiungere per ribattere le obiezioni di carattere logico. Appunto questo è il più saldo di tutti i principi, perché possiede la determinazione che noi abbiamo enunciata. È impossibile, infatti, supporre che la medesima cosa sia e non sia, come certuni credono, che invece sostenga Eraclito. Può anche capitare, infatti, che uno non sia pienamente convinto di quello che dice, e se non è possibile che attributi contrari appartengano simultaneamente a una medesima cosa, e si considerino aggiunte da noi anche in riferimento a questa premessa, tutte quelle determinazioni che di solito vanno aggiunte, e se l'opinione che è in contraddizione con un'altra opinione è contraria a quest'ultima, risulta allora evidentemente impossibile che la medesima persona nel medesimo tempo pensi che la medesima cosa sia e non sia, giacché in tal caso colui che cadesse in questo errore avrebbe nel medesimo tempo due opinioni contrarie. Ecco perché chiunque intenda produrre una dimostrazione la fonda in ultima istanza su questa convinzione, giacché questa è, per sua natura, anche la base su cui poggiano tutti quanti gli altri assiomi. Paragrafo 4. confutazione degli errori di chi nega il principio di non contraddizione. Ci sono tuttavia certuni i quali, come dicevamo, sostengono la possibilità che la medesima cosa sia e non sia, e che il pensiero possa concepirla in questo modo. Anzi, molti naturalisti fanno tale ragionamento. Ma proprio adesso noi abbiamo stabilito, seguendo il nostro punto di vista, che è impossibile essere e non essere nel medesimo tempo, e proprio in base a tale impossibilità noi abbiamo dimostrato che questo è il più saldo di tutti i principi. Certuni, tuttavia, pretendono che si dia dimostrazione anche di questo, ma tale loro pretesa è effetto della loro impreparazione, giacché è segno di impreparazione il non saper riconoscere di quali cose si debba cercare dimostrazione e di quali no. Infatti, è senz'altro impossibile che si dia dimostrazione di tutte quante le cose. In tal caso, infatti, si andrebbe all'infinito, e quindi neppure così si produrrebbe dimostrazione. E siccome ci sono alcune cose di cui non si deve cercare dimostrazione, essi non potrebbero dirci quale sia, a parer loro, il principio che di dimostrazione non ha bisogno affatto. Tuttavia, anche per quanto concerne tale principio, l'impossibilità di dimostrare che una cosa sia e non sia può essere provata mediante confutazione, purché il nostro interlocutore intenda dare alle sue parole un certo significato. Ma se egli parla senza costrutto, è ridicolo mettersi a cercare un'argomentazione contro di lui che non ha niente da argomentare, almeno finché non ha niente da argomentare. Difatti un tale uomo, in quanto si trova in tale stato, somiglia ormai a una pianta. E io sostengo che c'è differenza tra dimostrare mediante confutazione e il semplice dimostrare, in quanto che chi esegue una semplice dimostrazione può sembrare che faccia una petizione di principio, mentre al contrario, se la responsabilità di una tale petizione di principio è di un altro, allora si ha confutazione e non dimostrazione. Il punto di partenza per tutte queste discussioni non sta nel pretendere che il nostro interlocutore asserisca che una cosa è o non è, giacché forse si potrebbe pensare che ciò non sia stato altro se non una petizione di principio, bensì nel pretendere che gli dica a se stesso e ad altri qualcosa che abbia almeno un significato. Questo infatti è indispensabile se veramente egli vuol dire qualche cosa. Nel caso contrario, una tale persona non potrebbe ragionare né con se stesso né con altri. Se però ci viene concesso questo, allora vi può essere dimostrazione, giacché vi sarà ormai qualcosa di definito. Ma il responsabile della petizione di principio non è colui che dà la dimostrazione, bensì colui che la subisce, giacché costui, proprio mentre vuole demolire un ragionamento, viene a subirlo. Inoltre, colui che ha fatto questa concessione è venuto anche ad ammettere che esiste qualcosa di vero indipendentemente dalla dimostrazione, sicché non sarebbe esatto dire che ogni cosa è in un modo e non in un altro. Primo. In primo luogo, pertanto, è ovviamente vero appunto questo, che cioè tanto il termine essere quanto il termine non essere ha un suo determinato significato, in modo che non ogni cosa può essere in un modo e non in un altro. Inoltre, se l'espressione uomo ha un solo significato, questo significato sarà animale bipede. E intendo dire che l'espressione avere un solo significato equivale a dire quanto segue. Se il termine uomo sta a significare una data cosa e se un essere qualunque è uomo, quella data cosa sarà l'essenza dell'uomo per quell'essere qualunque. E non importa affatto che a un unico termine si attribuiscano molti significati, basta che questi siano di numero limitato, giacché a ciascuna definizione si potrebbe assegnare anche un nome diverso. Ad esempio, si potrebbe affermare che il termine uomo non ha un solo significato, ma ne ha molti, e che uno solo di questi può avere come definizione l'espressione animale bipede. Mentre, d'altra parte, vi potrebbero essere molte altre definizioni, ma pur sempre di numero limitato. Si potrà porre, infatti, in tal caso, un nome particolare per ciascuna di tali definizioni. Se invece non si ponesse un limite, ma si affermasse che il termine uomo ha infiniti significati, allora non si potrebbe evidentemente fare alcun ragionamento, giacché non avere un solo significato equivale a non avere significato alcuno. E se i nomi non hanno significato alcuno, viene di fatto soppresso ogni scambio di pensiero, non solo con gli altri, ma, a dire il vero, anche con se medesimi. Infatti è impossibile possedere un pensiero se non si pensa a una cosa sola, e seppur ciò fosse possibile, allora a questa cosa non si potrà assegnare che un solo nome. Si tenga allora per fermo, come dicevamo da principio, che il nome sta a significare qualcosa, anzi che esso sta a significare una cosa sola. In verità è impossibile che essere uomo abbia lo stesso significato che non essere uomo, se è esatto che il termine uomo sta a significare non solo l'attributo di un'unica cosa, ma anche quella stessa unica cosa. Infatti noi non reputiamo che l'espressione significare un'unica cosa si identifichi con l'espressione significare un qualche attributo di un'unica cosa, giacché in questo caso i termini musico, bianco e uomo avrebbero un solo significato e di conseguenza tutte quante le cose sarebbero una cosa sola, dato che esse verrebbero ad essere sinonime. E non sarà possibile che la medesima cosa sia e non sia, tranne che per pura omonimia, come avverrebbe ad esempio nel caso che altri chiamassero non uomo quello che noi chiamiamo uomo. Ma il nostro problema non è quello di sapere se uomo sia e nello stesso tempo non sia in quanto nome, ma in quanto oggetto reale. E se uomo e non uomo non stanno a significare qualcosa di differente, evidentemente anche non essere uomo non differirà da essere uomo, sicché l'essere uomo verrà ad identificarsi col non essere uomo, giacché si tratta di un'unica cosa. Infatti l'espressione essere un'unica cosa sta a significare che unico è il discorso definitorio, come nel caso di Pallio e di Mantello. Ma se ci sarà questa identità, allora essere uomo ed essere non uomo avranno lo stesso significato. Si era però dimostrato che il principio è diverso. E però, se noi diciamo, in conformità col vero, che un qualcosa è uomo, allora necessariamente questo qualcosa è animale bipede, giacché il termine uomo, come dicevamo, sta a significare appunto questo. Se ciò è necessario, non è possibile che questa medesima cosa non sia nello stesso tempo animale bipede, giacché l'espressione è necessario significa appunto è impossibile che non sia. Quindi non è possibile essere nel vero quando si afferma nello stesso tempo che la stessa cosa è uomo e non uomo. Lo stesso discorso vale anche a proposito dell'espressione non essere uomo. Infatti, essere uomo ed essere non uomo hanno un significato differente, se è vero che le espressioni essere bianco ed essere uomo hanno un diverso significato. E in realtà le due espressioni precedenti sono molto più opposte tra loro e a maggior ragione hanno un significato differente. Se poi ci si obietterà che bianco e uomo stanno a significare una sola e medesima cosa, allora noi ribadiremo proprio ciò che abbiamo detto anche prima, che cioè in tal caso tutte quante le cose, e non i soli opposti, verranno a identificarsi. Ma se ciò non è possibile, capita proprio quello che abbiamo affermato, purché il nostro obiettore dia risposta alla domanda che noi gli poniamo. Se invece la nostra domanda, egli non farà altro se non dare per risposta una serie di negazioni, allora egli in realtà non riesce a dare alcuna risposta. Nulla vieta infatti che lo stesso oggetto sia uomo e bianco e numerose altre cose. Tuttavia, quando ci si domanda se è vero o non è vero che questo dato oggetto sia uomo, bisogna dare una risposta che abbia un unico significato, senza aggiungere peraltro che quel dato oggetto è anche bianco e grande. E in verità gli accidenti sono infiniti e non è possibile enumerarli. E il nostro obiettore o deve mettersi a passarli tutti quanti in rassegna, oppure non ne enumeri nessuno. Allo stesso modo, pertanto, anche se il medesimo oggetto è per 10.000 volte uomo e non uomo, alla domanda se un tale oggetto è un uomo non si deve mai rispondere aggiungendo che esso è nello stesso tempo anche non uomo, a meno che non si aggiungano nella risposta anche tutte quante le altre cose accidentali che quel dato oggetto è o non è. Ma se si fa questo non si può discutere più. Insomma, coloro che ragionano in questo modo sopprimono la sostanza e l'essenza. Infatti essi sono costretti ad affermare che tutte le cose sono accidentali e che non esiste una determinata cosa che è essenzialmente animale. Se infatti ci sarà una determinata cosa che è essenzialmente uomo, questa non si identificherà né con essere non uomo né con non essere uomo, quantunque queste siano negazioni di quella. Infatti, quello che allora si intendeva significare era un'unica cosa, vale a dire la sostanza di una data cosa. Ma significare la sostanza di una data cosa vale come dire che l'essenza di tale cosa è appunto quella e non altra. Se invece l'essere essenzialmente uomo si identificherà con l'essere essenzialmente non uomo o col non essere essenzialmente uomo, allora l'essenza sarà qualche altra cosa e di conseguenza essi saranno costretti ad ammettere che nessuna cosa ha una definizione di tal genere, ma che tutte le cose sono accidentali. In verità, proprio in questo consiste la differenza tra sostanza e accidente. Il bianco è accidentale all'uomo perché questi è bianco, ma il bianco non è la sua essenza. Ma se si afferma che tutte le cose sono accidentali, non vi sarà un oggetto primario in virtù del quale gli accidenti stessi esistano, dal momento che l'accidente sta sempre a significare il predicato di qualche sostrato. In tal caso, allora, non si potrà evitare il processo all'infinito del predicato. Ma ciò è impossibile, perché non si riscontrano mai più di due accidenti direttamente implicati tra loro. Infatti, l'accidente non è accidentale ad un altro accidente, se non in quanto entrambi sono accidentali allo stesso oggetto. Vale a dire, ad esempio, che il bianco è musico e che questo è bianco, in quanto entrambi questi termini sono accidentali all'uomo. Ma musico è accidente di Socrate non nel senso che entrambi questi termini siano accidentali ad un'altra cosa. Si parla dunque di accidenti non solo in questa seconda accezione, ma anche in quell'altra. E tuttavia quegli accidenti che vengono enunciati allo stesso modo in cui si dice che il bianco appartiene a Socrate non possono procedere all'infinito in direzione del predicato, come ad esempio a Socrate bianco non può appartenere un altro accidente, giacché dall'insieme di tutti quanti questi attributi non ne verrebbe fuori un qualcosa che sia unitario. D'altra parte, nel caso della prima accezione, al termine bianco si potrà aggiungere un qualche altro termine accidentale, ad esempio musico, giacché quest'ultimo termine non è affatto più accidentale rispetto al primo, di quanto il primo sia accidentale rispetto ad esso. E noi abbiamo nello stesso tempo distinto gli accidenti che si presentano in questo modo da quegli altri che si presentano nel modo in cui si presenta musico rispetto a Socrate. E mentre in quest'ultimo caso l'accidente non è mai accidentale all'accidentale, nel caso precedente una tal cosa è possibile, in modo che si potrà affermare che non tutte le cose sono accidentali. Anche così ci sarà dunque qualcosa che sta a indicare la sostanza. E noi abbiamo già dimostrato che, se le cose stanno così, è impossibile che asserzioni contraddittorie vengano usate simultaneamente come predicato. 2. Inoltre, se le asserzioni contraddittorie relative al medesimo oggetto sono tutte quante vere nello stesso tempo, risulterà ovviamente che tutte le cose sono una cosa sola. Se infatti si concede la possibilità tanto di affermare quanto di negare qualsiasi cosa, allora verranno ad esempio a identificarsi tra loro una trireme, un muro e un uomo, il che appunto necessariamente accade a coloro che condividono il ragionamento di Protagora. Se infatti qualcuno è dell'opinione che l'uomo non sia una trireme, evidentemente l'uomo non dovrebbe essere una trireme. Ma poiché l'asserzione contraddittoria è vera, l'uomo dovrà essere anche una trireme. Verrebbe in tal modo riconfermato il detto di Anassagora, secondo cui tutte le cose sono confuse insieme e quindi nessuna cosa singola avrebbe una sua autentica esistenza. Sembra dunque che costoro parlino dell'indeterminato e proprio quando credono di parlare dell'essere, essi in realtà parlano del non essere. Difatti ciò che esiste in potenza e non è in atto è appunto l'indeterminato. Ma costoro in realtà sono costretti ad ammettere l'affermazione o la negazione di qualsiasi predicato che si riferisca a qualsiasi soggetto, giacché sarebbe assurdo ritenere che ciascun termine abbia la propria negazione e non abbia invece quella di un altro termine che non sia suo attributo. Vale a dire, ad esempio, che se è corretto affermare che l'uomo è non uomo, sarà corretto affermare anche che egli è trireme e che non è trireme. Pertanto, se è vera l'affermazione, sarà vera anche la negazione. Se invece l'affermazione non è vera, la negazione di un altro termine sarà tuttavia più vera di quella dello stesso termine originario. Se quindi è corretto attribuire al termine originario la negazione, sarà corretto attribuirgli anche la negazione della trireme. Ma se gli si attribuisce questa negazione, gli si dovrà attribuire anche l'affermazione. 3. Coloro che condividono tali teorie non solo vanno a cadere in tali risultati, ma giungono anche alla conclusione che non è necessario affermare o negare. Se infatti fosse vero che un oggetto è uomo e anche non uomo, evidentemente esso non sarebbe né uomo né non uomo. Infatti, a tutte e due queste affermazioni corrispondono due negazioni. E se la prima affermazione è considerata come un'unica proposizione, composta da due proposizioni, anche la seconda dovrà essere un'unica proposizione opposta alla prima. 4. Inoltre, o la faccenda sta così in ogni caso, è un dato oggetto insieme bianco e non bianco, esistente e non esistente, e ciò si dovrà riscontrare parimenti anche in tutte le altre affermazioni e negazioni, oppure la faccenda non sta in questo modo, ma ciò che si è detto vale solo per alcune affermazioni e negazioni e per altre no. E se non è valido per tutte, si dovranno concedere delle eccezioni. Se invece è valido per tutte, allora ancora una volta o si può negare tutto quello che si afferma e si può affermare tutto quello che si nega, oppure si può negare tutto quello che si afferma senza che però si possa mai affermare tutto quello che si nega. E se la faccenda stesse così, si otterrebbe come risultato che almeno qualcosa sicuramente non esiste. E questa sarebbe un'opinione ben solida, e se il non essere è qualcosa di ben solido e conoscibile, allora dovrà essere ancora più conoscibile l'affermazione opposta. Ma se tutto quello che si nega si può allo stesso modo anche affermare, allora deve essere necessariamente vera o falsa la determinazione di ciascun predicato separatamente. Ossia la determinazione, ad esempio, che un oggetto è bianco e anche al contrario che esso non è bianco. E se non è vera la determinazione di ciascun predicato separatamente, allora il nostro avversario non dirà quello che egli stesso dichiara di star dicendo. E la conclusione è che non esiste proprio niente. Ma come mai allora le cose che non esistono potrebbero parlare e camminare? E tutte le cose sarebbero una cosa sola, come abbiamo detto anche prima. E uomo, e Dio, e trireme, e pietra si identificherebbero, e così anche le determinazioni a loro contrarie. Se infatti le determinazioni contrarie possono essere ugualmente assegnate a ciascun oggetto particolare, non vi sarà alcuna differenza tra una cosa e un'altra, giacché se una cosa fosse differente, avrebbe una sua esistenza autentica e propria. E anche nel caso che sia possibile dire la verità mediante la determinazione di ciascun predicato separatamente, si riscontra ugualmente quello che abbiamo detto. Anzi, oltre a questo, si riscontrerebbe anche che tutti dicono il vero e tutti dicono il falso. E così anche il nostro avversario verrebbe ad ammettere che egli stesso è in errore. Ma nello stesso tempo risulta con evidenza che la discussione con una tale persona è priva di alcun valore, giacché egli non dice proprio nulla. Egli infatti non dice né sì né no, ma dice sì e no insieme, e d'altra parte nega insieme tutte e due queste cose, in quanto dice né sì né no, altrimenti vi dovrebbe essere di già una qualche enunciazione ben definita. 5. Inoltre, se la negazione è falsa quando l'affermazione sia vera, e se l'affermazione è falsa quando la negazione sia vera, non sarà possibile affermare e negare nello stesso tempo la medesima cosa, conservando il rispetto della verità. Ma forse ci si potrà obiettare che in questo caso noi stiamo facendo una petizione di principio. 6. Inoltre, forse che è nell'errore colui il quale ritiene che una cosa o è così o non è così, mentre al contrario è nella verità colui che ritiene entrambe queste cose insieme? E se quest'ultimo ha ragione, che significato avrebbe l'affermazione che questa è la natura della realtà? E se egli non ha ragione, ma è pur sempre meno lontano dalla verità rispetto a colui che la pensa in quell'altro modo, allora il mondo della realtà dovrebbe avere una sua natura di già determinata, e ciò sarebbe vero e non potrebbe essere nello stesso tempo anche non vero. Ma se tutti sono indifferentemente nell'errore e nella verità, una persona che la pensa così non potrebbe emettere né suono né parola, giacché nello stesso tempo egli fa e non fa queste asserzioni. Ma se costui non riesce a formulare alcun giudizio, anzi se indifferentemente pensa e non pensa, in che cosa mai egli sarà diverso dalle piante? Proprio da questa considerazione si evince con la massima evidenza che in tale stato non si trova non solo nessuno di quelli che professano tali dottrine, ma anche nessun altro. E se così non fosse, perché mai uno si dirige verso Megara quando reputa opportuno che debba andarvi e non se ne sta tranquillo a casa sua? E perché mai di buon mattino non se ne va diritto in un pozzo o magari in un burrone, ma si guarda bene dal farlo, mostrando in tal modo che egli non crede affatto che sia indifferentemente bene e non bene il caderci dentro? È ovvio allora che costui sa giudicare ciò che è meglio e ciò che è peggio, e se è così egli non può giudicare che una cosa è uomo e un'altra è non uomo, e che una cosa è dolce e un'altra è non dolce. Quando egli, reputando che sia meglio bere acqua o vedere un uomo, va alla ricerca di tali cose, non si mette a cercare, non giudica più alla stessa stregua tutte quante le cose, Eppure proprio questo egli avrebbe dovuto fare se la medesima cosa fosse indifferentemente uomo e non uomo. Ma, come noi dicevamo, non c'è nessuno che non sembri schivare una cosa e non schivare un'altra, sicché tutti, a quanto pare, formulano giudizi assoluti, anche se non su tutte le cose, almeno su quanto concerne il meglio e il peggio. E se si comportano in questo modo, fondandosi su congetture e non sulla conoscenza scientifica, molto di più allora essi dovranno avere cura della verità, proprio come chi è infermo deve avere cura della salute più di chi è sano, giacché di fronte alla verità, colui che si basa su congetture non è in uno stato di buona salute se viene messo a confronto con chi si basa su nozioni scientifiche. 7. Infine, anche ad ammettere quanto si vuole che le cose sono così e non così, è tuttavia inerente alla natura delle cose stesse la differenza tra il più e il meno. Infatti noi non potremmo affermare che il 2 e il 3 siano allo stesso modo numeri pari, né chi crede che il 4 si identifichi col 5 commette un errore della stessa gravità di chi crede invece che esso si identifichi col 1000. E se pertanto l'errore di queste due persone non è della stessa gravità, è ovvio che una delle due sbaglia meno e quindi si accosta di più alla verità. E se dunque ciò che possiede la natura di una cosa è più vicino a quest'ultima, allora ci dovrà pur essere una qualche verità alla quale è più vicino ciò che è più vero. E anche a voler ammettere che questa verità non esiste, esiste pur sempre qualcosa di più saldo e di più veritiero, e in tal modo noi ci saremmo già emancipati da quella dottrina troppo intemperante che impedisce di determinare qualsiasi cosa mediante il pensiero. Paragrafo 5. Confutazione del relativismo. Dal medesimo punto di vista muove anche il ragionamento di Protagora, e queste dottrine non possono non essere, tutte e due, ugualmente vere o ugualmente false. Infatti, se sono vere tutte le opinioni e tutte le apparenze, allora inevitabilmente tutte le cose sarebbero nello stesso tempo vere e false, giacché molti formulano giudizi che sono tra loro contrari e credono che siano caduti in errore coloro che non professano le loro stesse opinioni, sicché necessariamente la medesima cosa è e non è. E se le cose stanno così, necessariamente tutte le opinioni debbono essere vere, giacché quelli che sono caduti nell'errore e quelli che dicono la verità hanno opinioni opposte, e pertanto, se questa è la realtà delle cose, tutti quanti sono nel vero. È chiaro dunque che entrambe queste dottrine provengono dalle medesime riflessioni, tuttavia non si possono usare verso tutti le stesse maniere, giacché verso alcuni basta servirsi della persuasione, verso altri bisogna far ricorso ad argomentazioni più energiche. Infatti, tutti quelli che hanno abbracciato tali dottrine, perché sono partiti da difficoltà reali, si trovano in uno stato di ignoranza che è ben suscettibile di guarigione, giacché noi, andando incontro a loro, non abbiamo a che fare con un discorso preconcetto, ma con una loro posizione mentale. Quelli invece che parlano solo per il piacere di parlare possono essere medicati soltanto mediante la confutazione delle teorie in piena conformità col modo in cui queste sono espresse nel loro linguaggio e nelle loro stesse parole. Quei filosofi che sono partiti da difficoltà reali hanno seguito questa opinione in base ad osservazioni sulle cose sensibili. Essi hanno creduto che le contraddizioni e i contrari coesistono nel medesimo oggetto, perché vedevano che i contrari sono generati dalla medesima cosa. Se pertanto non è ammissibile che si generi il non essere, allora si deve pure ammettere, a parer loro, la preesistenza dell'oggetto che si identificava indifferentemente con entrambi i contrari, proprio nel senso in cui Anassagora afferma che il tutto era mescolato col tutto, e in cui Democrito sostiene che il vuoto e il pieno sono presenti indifferentemente in qualsivoglia parte della realtà, solo che il pieno è l'essere e il vuoto è il non essere. Orbene, a quelli che fondano le loro concezioni su questi argomenti, noi diremo che in un senso essi fanno un ragionamento corretto, ma che in un altro senso essi versano nell'ignoranza. Difatti il termine essere può essere usato in due accezioni, di modo che in un senso è possibile che un qualcosa sia generato dal non essere, in un altro senso no. Ed è possibile quindi che nello stesso tempo la medesima cosa sia essere e non essere, ma non essendo la medesima accezione del termine essere, giacché è possibile che la medesima cosa si identifichi simultaneamente con tutti e due i contrari, ma solo in potenza e non già in atto. E oltre a ciò, noi chiederemo a costoro di considerare che tra le cose esistenti c'è anche una qualche sostanza la quale non presuppone affatto né movimento né corruzione né generazione. Allo stesso modo anche la teoria secondo cui la verità risiede nelle apparenze è giunta a questi pensatori dall'osservazione delle cose sensibili. Infatti a parer loro la verità non è quella che viene giudicata secondo il numero grande o piccolo di quelli che la professano, ma la medesima cosa quando viene gustata ad alcuni sembra essere dolce ad altri amara. E di conseguenza se tutti fossero malati e tutti fossero pazzi e soltanto due o tre persone fossero sane e conservassero l'uso della ragione, sembrerebbe che proprio queste ultime fossero malate e pazze e gli altri no. Inoltre, quei filosofi dicono che parecchi animali ricevono dalle medesime cose impressioni contrarie a quelle che riceviamo noi e che persino allo stesso individuo le proprie impressioni sensibili non appaiono sempre le medesime. E pertanto non risulta con chiarezza quali di queste impressioni siano vere e quali siano false, giacché non c'è alcun motivo per ritenere alcune più vere di altre, ma sono tutte vere allo stesso modo. Ecco perché Democrito afferma che o nulla è vero, o almeno la verità non ci appare con chiarezza. Insomma, costoro, proprio perché identificano il pensiero con la sensazione e considerano quest'ultima come alterazione, sostengono che le impressioni ricevute mediante la sensazione siano necessariamente vere. E per questi motivi Empedocle e Democrito, e starei per dire ogni altro filosofo, sono caduti in balia di siffatte opinioni. Anche Empedocle, difatti, afferma che il pensiero muta quando muta lo stato fisico. Cresce pensiero agli umani secondo lo stato presente. E in un altro luogo egli dice che quanto alterati essi sono, tanto alterate le cose. Sempre il pensiero offre a loro. Ed anche Parmenide fa allo stesso modo le sue dichiarazioni. Come ogni volta si trova mescolanza di membra fessibili, anche così si presenta per l'uomo la mente. Davvero sono pensiero e natura di membra, lo stesso per tutti gli uomini e per un solo uomo, che è sempre il più forte è pensiero. E si ricorda anche un detto di Anassagora ad alcuni suoi compagni, che cioè la realtà sarebbe stata per loro quali essa la giudicassero. E dicono che anche Omero seguisse evidentemente tale opinione, perché rappresentò Ettore nel momento in cui delirava per il colpo ricevuto, che giaceva altrimenti pensando. Volendo dire che anche quelli che sono usciti di mente, pur continuano a pensare, quantunque i loro pensieri non siano i medesimi. E allora, se entrambi sono pensieri, anche le cose reali sono evidentemente così e non così nel medesimo tempo. Ma proprio da ciò derivano le conseguenze più gravi. Infatti, se quelli che più di ogni altro sono riusciti a vedere la verità pur nei limiti delle loro possibilità, e costoro sono proprio quelli che massimamente la cercano e la amano, se proprio costoro professano tali opinioni e vanno facendo queste dichiarazioni intorno alla verità, come mai non si dovranno perdere di coraggio quelli che cominciano appena a filosofare? Perché la ricerca della verità si potrebbe identificare con l'inseguimento di uccelli in volo. Il motivo per cui questi filosofi la pensano così sta nel fatto che essi, pur cercando di dare al problema della realtà la soluzione esatta, hanno ritenuto che la realtà si identificasse esclusivamente con le cose sensibili. Se non che proprio in queste ultime sono presenti ampiamente la natura dell'indeterminato e quei caratteri dell'essere che abbiamo precedentemente rilevati. Però quello che si dicono è verosimile, ma non è vero. E così dicendo noi abbiamo verso di loro quel giusto riguardo che Epicarno non ebbe verso Senofane. Inoltre essi, osservando che tutta quanta questa natura è in movimento e che non è possibile dire alcuna verità su ciò che cambia, sostennero che non si può dire la verità su tutto quello che per ogni dove e in ogni modo attua il cambiamento. Da questa considerazione, infatti, germogliò l'opinione che, tra quelle da noi esaminate, è la più estremistica, quella cioè di quanti si professano seguaci di Eraclito, opinione che è stata sostenuta appunto da Cratilo. Da quel Cratilo, il quale finì col credere che non si dovesse proferire neppure una parola, e soleva fare soltanto movimenti col dito, e rimproverava ad Eraclito di aver detto che non si può scendere due volte nello stesso fiume, giacché la sua opinione personale era che non vi si potesse scendere neppure una volta sola. Contro queste argomentazioni però noi diremo che l'oggetto che cambia offre pure a costoro, nell'atto del suo cambiamento, qualche ragione perché essi credano alla sua non esistenza, ma che tuttavia si possono nutrire anche su ciò, giacché l'oggetto che sta perdendo una determinazione possiede pur qualcosa di quello che viene perduto, e qualcosa di ciò che si sta generando deve necessariamente esistere, e in generale, se un oggetto sta corrompendosi, permarrà ancora qualcosa di esso che esiste, e se un oggetto si sta generando, deve necessariamente esistere ciò da cui esso proviene, da cui è generato, e tutto questo non può procedere all'infinito. Ma pur mettendo da parte queste argomentazioni, dobbiamo dire che non sono la medesima cosa il cambiamento quantitativo e quello qualitativo. E anche se ammettiamo che nessun oggetto permanga identico per quantità, tuttavia vi sarà sempre la forma che ce lo farà riconoscere. Ma oltre a ciò, si può rimproverare a questi pensatori il fatto che essi, pur tenendo presente solo un piccolo numero delle stesse cose sensibili, hanno osato dichiarare che la faccenda sta allo stesso modo anche per l'intero universo. In realtà, la regione del mondo sensibile in cui noi viviamo è l'unica sede ove si riscontrano la generazione e la corruzione, ma essa è, direi quasi, una particella insignificante dell'universo, in modo che sarebbe stato più giusto assolvere queste cose sensibili in virtù di quelle celesti, anziché condannare queste ultime a causa di quelle. Inoltre noi faremo anche, contro questi pensatori, le medesime osservazioni che abbiamo fatto precedentemente, giacché bisogna mostrare loro e persuaderli che esiste anche una realtà immobile. Eppure, quelli che asseriscono che nello stesso tempo le cose sono e non sono, sono costretti alla fine ad ammettere che la realtà tutta è inquiete piuttosto che in moto, giacché mancherebbe ciò in cui le cose stesse possano cambiare, dato che tutte le cose sono già presenti in tutte le cose. A proposito poi della verità, ossia del fatto che non tutto quello che appare è vero, in primo luogo noi osserveremo che anche a voler ammettere che la sensazione, nei limiti del suo oggetto peculiare, non è falsa, l'immaginazione tuttavia non si identifica con la sensazione. Inoltre noi dovremmo, a buon diritto, stupirci del fatto che costoro si pongono la questione se le grandezze e i colori siano realmente tali quali appaiono da lontano oppure da vicino, e quali appaiono ai sani oppure agli infermi, e se siano realmente più pesanti quegli oggetti che appaiono pesanti ai deboli oppure ai forti, e se sia realmente vero ciò che sembra tale a chi dorme oppure a chi veglia. Ma è ben manifesto che tutte queste incertezze essi non le provano realmente. Del resto, nessuno che creda durante la notte di trovarsi ad Atene, mentre in realtà è in Libia, si mette realmente a camminare in direzione dell'Odeon. Inoltre, per quel che concerne il futuro, come sottolinea anche Platone, l'opinione del medico non ha certamente la stessa validità di quella dell'incompetente, quando si voglia sapere, ad esempio, se un ammalato guarirà o non guarirà. Anzi, anche a proposito delle stesse sensazioni, bisogna notare che la percezione di un oggetto estraneo a un determinato senso non è valida allo stesso modo di quella di un oggetto che sia peculiare di quel senso, né la percezione di un oggetto che è peculiare di un senso affine è valida allo stesso modo di quella di un oggetto che è proprio di quel senso. Ma in realtà, se si tratta di colore, vale la vista e non già il gusto, e se si tratta invece di sapore, vale il gusto e non già la vista. Però nessuno di tali sensi ci dice, nello stesso tempo, in riferimento a un medesimo oggetto, che quest'ultimo è simultaneamente così e non così. Anzi, neppure in un tempo diverso, un senso può trovarsi in disaccordo con se medesimo per quanto concerne una qualità affettiva, ma soltanto per quanto concerne l'oggetto al quale questa qualità appartiene. Voglio dire, ad esempio, che il medesimo vino può sembrare ora dolce, ora non dolce, tanto a causa di un suo stesso mutamento, quanto perché sono mutate le condizioni fisiche di chi lo beve. Ma il dolce, così come esso è nella sua reale consistenza, non è mai cambiato. E su questo punto noi non possiamo mai sbagliare, e necessariamente ciò che anche in futuro sarà dolce avrà siffatta caratteristica. Eppure tutte le teorie che noi stiamo criticando eliminano la possibilità che qualcosa necessariamente esista, proprio in quanto negano l'esistenza di una qualche sostanza. Difatti non è ammissibile che il necessario esista ora in un modo e ora in un altro, e di conseguenza se qualcosa esiste necessariamente, questo qualcosa non può essere così e anche non così. Insomma, se si ammette la sola esistenza del sensibile, nulla potrebbe esistere qualora non si ammettesse anche l'esistenza degli esseri animati, giacché senza di questi non esisterebbe neppure la sensazione. E forse potrebbe essere anche vero che non esistono né le qualità sensibili né le sensazioni, giacché queste cose non sono altro se non affezioni del senziente. ma non è affatto possibile che i sostrati, i quali producono la sensazione, non esistano anche senza la sensazione. Invero, la sensazione non è affatto sensazione di se stessa, ma esiste anche qualcosa di diverso al di fuori della sensazione stessa, ed è indispensabile presupporre l'esistenza di questo qualcosa come anteriore alla sensazione, giacché ciò che muove è per natura anteriore a ciò che è mosso, il che non è meno vero anche nel caso che i termini siano correlativi. Comunque, tanto tra quelli che sostengono con convinzione le teorie da noi criticate, quanto tra quelli che le professano solo per trovare mediante queste argomenti di disputa, vi sono alcuni che sollevano le seguenti difficoltà, domandandosi ad esempio quale persona possa giudicare sulla buona salute di un uomo e in generale chi possa dare un corretto giudizio su ciascuna cosa. Ma porre questioni di tal genere equivale a chiedersi se in questo istante noi stiamo dormendo o siamo desti, e le aporie siffatte hanno tutte quante il medesimo punto di partenza, giacché quelli che le pongono ritengono che si possa dare una spiegazione razionale di tutte le cose. Essi infatti vanno alla ricerca di un principio e intendono conseguirlo mediante la dimostrazione, ma poi con il loro comportamento fanno chiaramente vedere che essi non posseggono alcuna convinzione. Ma come noi dicevamo, il loro caso è appunto il seguente. Essi cercano una spiegazione razionale di ciò che non può averla, giacché il principio di una dimostrazione non va soggetto esso stesso a dimostrazione. Quelli che sono in buona fede possono essere facilmente convinti di ciò, infatti non è difficile capirlo, ma quelli che mirano soltanto a farsi valere nella discussione vanno alla ricerca dell'impossibile, giacché essi si arrogano il diritto di fare asserzioni tra loro contrarie, cominciando col fare realmente asserzioni che sono tra loro contrarie. Se però tutto non è relativo, ma vi sono anche alcune cose che esistono di per sé, allora ogni apparenza non dovrebbe essere vera, giacché l'apparenza è solo ciò che appare a qualcuno. Sicché colui il quale sostiene che tutte le apparenze sono vere, considera tutte le cose esistenti come relative. Perciò quelli che mirano a farsi valere nella discussione e che, nello stesso tempo, proclamano di sottostare alla discussione, devono ben guardarsi dall'asserire l'esistenza dell'apparenza, ma devono precisare che ciò che appare esiste soltanto per la persona alla quale appare, nel tempo in cui appare, per il senso al quale appare e nel modo in cui appare. Se sottostanno alla discussione, ma non fino a questo punto, accadrà ad essi di fare ben presto asserzioni che sono in contrasto tra loro. È possibile, infatti, che per la medesima persona un oggetto appaia come miele alla vista ma non al gusto, e che siccome gli occhi sono due, le cose non appaiono identiche a ciascuno di questi due organi, qualora questi abbiano una diversa capacità visiva. Inoltre, facile muovere obiezione contro quelli che, per le ragioni precedentemente indicate, dicono che è vero ciò che appare e che perciò tutte le cose sono ugualmente vere o false. Infatti esse non appaiono sempre le stesse a tutti e neppure appaiono sempre le stesse alla stessa persona, ma sovente hanno apparenze contrarie anche nel medesimo tempo. Infatti, quando noi intrecciamo le dita, il tatto ci suggerisce che noi stiamo toccando due oggetti, mentre la vista ci suggerisce che ne stiamo toccando uno solo. Né una tal cosa si riscontra per il medesimo oggetto e sotto il medesimo rapporto, e nel medesimo modo e nel medesimo tempo, ossia nelle condizioni che permetterebbero a quell'apparenza di essere vera. Ma è questo forse il motivo per cui quelli che parlano solo per amor di disputa e non perché nutrano seri dubbi saranno forse costretti ad affermare che l'apparenza non è vera in sé, ma è vera solo per il soggetto senziente. E, come già prima dicevamo, essi sono costretti a considerare tutte le cose relative tanto all'opinione quanto alla sensazione, di modo che nulla sarebbe accaduto nel passato o potrebbe verificarsi nell'avvenire senza che qualcuno ne abbia avuto opinione già prima. Ma se, invece, qualcosa è realmente accaduto o si verificherà realmente, allora è ovvio che non tutte quante le cose sono relative all'opinione. Inoltre, se la cosa è una sola, essa sarà relativa ad una cosa sola o a qualcosa di determinato. E seppure la medesima cosa si identifica nello stesso tempo con la metà e con l'uguale, ciò non vuol dire che l'uguale sarà relativo al doppio. E se d'altra parte, relativamente al soggetto opinante, l'uomo e l'oggetto opinato sono identici, allora non sarà il soggetto opinante, bensì l'oggetto opinato a identificarsi con l'uomo. E se si ammette che ciascuna cosa sia relativa al soggetto opinante, allora quest'ultimo verrà ad essere relativo ad oggetti che sono infiniti per specie. Basti dunque aver fatto queste precisazioni, che cioè la più salda di tutte le opinioni è quella secondo cui le asserzioni opposte non sono nello stesso tempo entrambe vere. E basti aver chiarito a quali conseguenze vadano incontro coloro che sostengono che esse sono entrambe vere e per quale motivo costoro parlino in questo modo. E poiché è impossibile che le asserzioni contrarie su una medesima cosa siano nello stesso tempo vere entrambe, è evidente che neppure i contrari possono insieme coesistere nel medesimo soggetto, giacché in una coppia di contrari uno dei due è privazione non meno che contrario, ed è privazione di una sostanza, e la privazione è negazione di un predicato appartenente a un genere determinato. Se dunque è impossibile che l'affermazione e la negazione di una cosa siano nello stesso tempo vere, è impossibile anche che i contrari coesistano nello stesso tempo, a meno che non coesistano entrambi in una certa maniera, oppure uno dei due esista in una certa maniera e l'altra in senso assoluto. Paragrafo sesto. Il principio del terzo escluso. Ma non è neppure possibile che ci sia qualcosa di intermedio tra due enunciati contrari, bensì di un'unica cosa è necessario affermare o negare un unico predicato qualunque esso sia. E ciò risulta evidente non appena si sia definito che cosa è il vero e che cosa è il falso. È falso infatti dire che l'essere non è o che il non essere è. È vero dire che l'essere è e che il non essere non è, in modo che anche colui il quale afferma che una cosa è oppure che una cosa non è, dirà la verità oppure sbaglierà. Ma non si può dire che né l'essere né il non essere indifferentemente non siano o siano. Inoltre, tra enunciati contrari, o si avrà realmente un intermedio, come c'è il grigio tra il nero e il bianco, oppure non ci sarà un intermedio, come tra uomo e cavallo non c'è qualcosa che non sia né uomo né cavallo. Ma nel caso che l'intermedio sia di quest'ultima specie, non si avrebbe cambiamento, giacché il cambiamento sia quando, ad esempio, si passa da non buono a buono, oppure da buono a non buono. Mentre in realtà il cambiamento è sempre manifesto, infatti non si attua cambiamento se non verso gli opposti e gli intermedi. Ma se si ammette un intermedio, in tal caso vi sarebbe anche una generazione verso il bianco, la quale però non avrebbe come punto di partenza il non bianco, cosa che in realtà noi non percepiamo affatto. Inoltre, tutto quello che è oggetto del pensiero discorsivo o di quello intuitivo viene affermato o negato dal pensiero, il che risulta con chiarezza dalla definizione, a secondo che il pensiero si attenga al vero o al falso. Quando esso, mediante un'affermazione o una negazione, congiunge soggetto e predicato in un dato modo, è nel vero, quando invece li congiunge in un modo diverso, è nel falso. Oltre a ciò, a meno che non si parli solamente per il piacere di parlare, l'intermedio dovrebbe essere al di fuori di tutti i termini della contraddizione, e la conseguenza sarebbe che noi non diciamo né il vero né il falso, e vi sarebbe qualcosa di intermedio al di fuori dell'essere e del non essere, e quindi dovrebbe verificarsi anche qualche cambiamento senza che si presuppongano la generazione e la corruzione. Inoltre ci sarà anche l'intermedio in tutte quelle cose in cui la negazione di un termine ha come effetto la generazione del termine contrario. Ad esempio, nei numeri l'intermedio sarà un numero che non è né dispari né pari, ma ciò è assurdo, come risulta chiaramente dalla definizione. Inoltre si avrebbe il processo all'infinito e le cose esistenti sarebbero non solo una volta e mezzo se stesse, ma anche di più, giacché sarebbe ancora una volta possibile negare l'intermedio in relazione alla sua affermazione e alla sua negazione. E questo nuovo intermedio sarebbe sempre una cosa determinata, dato che la sua sostanza sarebbe sempre qualcosa di diverso. Inoltre, quando alla domanda se una cosa sia bianca si risponde negativamente, non si è venuto a negare nient'altro se non il suo essere bianca, e il suo non essere bianca è negazione. Eppure, in taluni, una tale opinione si è fatta strada, allo stesso modo di certi altri paradossi. E ciò dovuto al fatto che, quando essi non riescono a dissolvere i ragionamenti eristici, si arrendono di fronte alle argomentazioni e acconsentono che la conclusione di queste sia vera. Alcuni sostengono queste teorie per tali motivi, altri invece le sostengono perché pretendono una spiegazione razionale di tutte le cose. Ma per confutare tutti costoro bisogna prendere come punto di partenza la definizione. E la definizione nasce dal bisogno stesso che costoro hanno di dare alle loro parole un certo significato, giacché si può considerare definizione solo quel discorso le cui parole abbiano un significato. E sembra che il ragionamento di Eraclito, secondo cui tutte le cose sono e non sono, ponga come vere tutte quante le cose, e che invece quello di Anassagora, secondo cui esiste un intermedio tra i termini della contraddizione, ponga tutte le cose come false. Infatti, dal momento che tutte le cose sono mescolate, la mescolanza non è né buona né non buona, e di conseguenza non si può affermare nulla di vero. Paragrafo settimo. Fallacia del principio secondo cui le cose sono tutte vere e tutte false. Se si tiene conto di queste precisazioni, si vede chiaramente che non possono avere consistenza le asserzioni unilaterali e quelle generiche fatte da certi filosofi, alcuni dei quali sostengono che niente è vero. Essi infatti affermano che nulla vieta di sostenere l'impossibilità di tutte le cose, allo stesso modo che è impossibile la commensurabilità della diagonale col lato. Mentre altri affermano che tutto è vero. In realtà queste teorie sono, in linea di massima, identiche a quelle di Eraclito, giacché chi sostiene che tutte quante le cose sono vere e tutte quante sono false, sostiene anche ciascuna di queste due proposizioni separatamente, in modo che, se è impossibile ciascuna delle due proposizioni presa separatamente, sono impossibili anche tutte e due insieme. Inoltre vi sono evidentemente proposizioni contraddittorie, le quali non possono essere vere tutte e due nello stesso tempo, e neppure possono essere tutte e due false. Quantunque si potrebbe anche ammettere questa seconda possibilità, in base a quanto abbiamo detto. Ma in opposizione a tutte queste teorie si deve esigere, come abbiamo detto anche nelle nostre precedenti discussioni, non già che un qualcosa sia o non sia, ma che una proposizione abbia un significato, di modo che la discussione deve procedere solo fondandosi su una definizione, dopo che abbiamo stabilito quale sia il significato di falso e di vero. E se la verità non risiede in altro che nell'affermare ciò la cui negazione è falsa, allora è impossibile che tutte le cose siano false, perché è necessario che una delle due parti della contraddizione sia vera. Inoltre, se è necessario o affermare o negare ogni cosa, è impossibile che entrambe le parti della contraddizione siano false, giacché soltanto una parte di essa è falsa. In realtà tutte le teorie di tal genere non si possono sottrarre a conseguenze ben note, che esse cioè si sopprimono da se stesse. Infatti, chi sostiene che tutte le cose sono vere considera come vero anche il ragionamento che è contrario al proprio e di conseguenza considera non vero il suo stesso ragionamento, giacché il ragionamento contrario sostiene che il suo non è vero. Invece, chi sostiene che tutte le cose sono false considera falso anche se stesso, e qualora essi ammettano delle eccezioni e il primo ci venga a dire che la proposizione contraria alla sua sia l'unica a non essere vera e il secondo ci venga a dire che la sua proposizione sia l'unica a non essere falsa, non di meno capita a entrambi di dover postulare una infinità di proposizioni vere e false. Infatti la proposizione che sostiene che è vera quella proposizione è essa stessa vera e una tale serie di proposizioni procederà all'infinito. È altresì evidente che non sono nel vero né quanti sostengono che tutte le cose sono inquiete, né quanti sostengono che tutte le cose sono in movimento. Se infatti tutte le cose sono inquiete, allora le medesime cose saranno sempre vere e sempre false, mentre è evidente che questa asserzione è soggetta a cambiamento. Difatti la stessa persona che sostenga una tale teoria, una volta non esisteva ancora e un'altra volta non esisterà più. Se invece tutto è in movimento, nulla sarà vero. E allora tutto sarà falso, ma si è dimostrato che questo è impossibile. Inoltre è indispensabile che l'oggetto che cambia sia un essere, giacché il cambiamento va da un termine iniziale a un termine finale. Ma neppure si può dire che tutte le cose siano inquiete o in moto solo qualche volta, e che nulla sia inquiete o in moto perpetuamente, giacché esiste pur qualcosa che eternamente muove le cose mosse, ed esiste pure il primo motore che è esso stesso immobile.